nessuno ha paura la notte di Natale. Quando occhi e sogni accendono le stelle. Tempo, sole e sabbia mi graffiano la faccia. Dov'è la mia coperta? Dove sono i miei regali? Ho preso e ho dato col destino. Siamo pari. Una vita veloce come un treno e sono ancora qui ad aspettare Natale e ho ancora i sogni del bambino che ero. Thank you. colori è un farò all'orizzonte, lontano, sempre uguale, una vicinanza apparente, questo vostro Natale.